Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Una trasmissione dedicata a tutti gli esseri sensibili, senzienti, corporei, con particolare attenzione agli altri animali e a chi ritiene, come noi, che gli altri animali siano sensibili, senzienti e indubbiamente anche vittime delle più tremende ingiustizie. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Ilaria Beretta, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Abbiamo parlato di ingiustizie verso gli altri animali e lo ribadiamo, gli animali non umani sono decisamente i più oppressi tra gli oppressi, ma sono in tanti filosofi, pensatori, riformatori sociali e attivisti, sia del presente che del passato, a dirci e ad averci detto che le ingiustizie e le oppressioni alla fine uniscono più categorie, donne, immigrati, neri, poveri, malati, insieme a tutti gli altri animali. Una persona che la pensa sicuramente così è Lisa Kemmerer, professoressa di filosofia delle religioni presso la Montana State University. Parliamo di lei per la sua attività di filosofa e attivista, per il suo lavoro di ricerca in nome degli animali non umani, dell'ambiente e di tutti gli esseri umani privi di potere. Laureata a Reed, ad Harvard e all'Università di Glasgow in Scozia, la Kemmerer ha scritto 9 libri su questi fondamentali argomenti e recentemente è uscito anche in Italia il suo ultimo lavoro, che si intitola Mangiare la terra, etica animale e scelte alimentari. E Lisa Kemmerer ha appena fatto un tour italiano per presentarlo. La nostra rabdomante della notizia, Roberta Marino, guidata dal suo microfono magico e sensitivo, ha raggiunto la Kemmerer durante la tappa milanese della sua tournée e, come sempre, ha portato a casa un'intervista densa di stimoli. Sentiamo. In che senso ci stiamo mangiando la terra? We're eating the earth because we have not gone vegan, because perché non stiamo seguendo una dieta vegana, quindi dobbiamo tornare a una dieta basata principalmente su piante. Quindi tutti i problemi ambientali che ci affliggono adesso, la deforestazione, i cambiamenti climatici, la diminuzione dello strato di ozono, sono tutti legati all'alimentazione che noi stiamo seguendo. We're also eating earth because we're eating fishes and we've depleted. Stiamo comunque mangiando anche quello che c'è sotto il mare, stiamo distruggendo l'ecosistema marino con la dieta che stiamo seguendo allo stesso modo. In che modo animalismo, femminismo e ambientalismo sono collegati? L'ecofemminismo ci ha fatto capire che esiste una vera e propria mentalità dello sfruttamento che possiamo riassumere nel concetto di A e non A, dove A rappresenta l'uomo bianco rispettabile e il non A è tutto quello che non è A, quindi gli animali, quindi le donne, l'ambiente, le altre razze, che vengono appunto sfruttati e niente cambierà finché non riusciremo a cambiare il sistema che ha creato questa situazione. Nothing is going to change until we change the system that's behind it. E l'ecofemminismo ci fa capire che non possiamo combattere per una cosa sola, dobbiamo combattere per tutti questi elementi assieme per poter ottenere il cambiamento. Questo libro è maggiormente indirizzato agli animalisti o agli ambientalisti? I would have to say both. Il libro è scritto per entrambi fondamentalmente, forse principalmente per gli animalisti, perché spiegare loro come affrontare l'argomento con gli ambientalisti. Probabilmente gli ambientalisti non compreranno, non leggeranno questo libro, ma se lo facessero comunque è scritto per loro, perché sono dati che per loro sono comprensibili. Ma fondamentalmente l'idea è quella di dare agli animalisti uno strumento per poter convincere e spiegare agli ambientalisti. C'è un legame, se c'è qual è, tra Eating Animals, Saffron 4, e sul libro Hitting Herds. There is no connection. Non ci sono collegamenti veri e propri, perché comunque sono 15 anni che abbiamo detto anche prima che sta lavorando a questo libro. In effetti è un po' dispiaciuta, perché secondo lei l'altro libro non ha dato delle indicazioni chiare. Alla fine dei fatti mostra la sofferenza, però non ci dice che noi abbiamo un obbligo morale fondamentalmente di fare una scelta. He doesn't draw the moral conclusion. He acts like there's all these horrible things. Oh, but we can choose. We're privileged. We have power. We can choose whether or not we want to cause killing and death and suffering and bloodshed rather than just eating vegetables and grains and fruits. It makes no sense. Lisa Kemmerer, Mangiare la terra, etica animale e scelte alimentari, Safarà editore, 200 pagine, €19,50. Ma sensata l'accusa che porta la Kemmerer alle conclusioni un po' reticenti di Safran Foer nel suo libro Se niente importa. Un libro, tra l'altro, a me e a tante persone particolarmente caro, perché è stato uno snodo fondamentale della consapevolezza e delle scelte di vita, appunto, di tante persone. Ma questo non ci deve impedire di riportare la traduzione esatta di quanto ha detto la Kemmerer durante l'intervista. Lei ha detto: non puoi descrivere così minuziosamente la sofferenza che causiamo agli animali allevandoli e poi cavartela dicendo: oh, ma noi possiamo scegliere, siamo intelligenti, abbiamo potere, possiamo decidere se vogliamo o non vogliamo uccidere tutto questo sangue, tutta questa morte, tutta questa sofferenza, invece di dire chiaramente che abbiamo l'obbligo morale di mettere la parola fine a questo sfruttamento ingiusto di cui non abbiamo il diritto. Lisa Kemmerer porta fino in fondo il discorso che Safran Foer lascia un po' a metà, forse anche perché nel suo ragionamento lei mette in discussione appunto il primato dell'animale uomo, cosa che Safran Foer si guarda bene dal fare. Che vi stiamo per raccontare adesso potrebbe anche titolarsi Un americano in India. Per presentare il personaggio in questione prenderò in prestito le parole di Macri Puricelli del blog Zoe la gatta, che vi consiglio di tenere d'occhio. Ci sono tante persone nel mondo, uomini e donne, che fanno un lavoro quotidiano con gli animali, spesso i più reietti. Il più delle volte è un lavoro poco conosciuto, magari non codificato. Non è un metodo e non vuole essere un insegnamento, è un essere, punto e basta, un essere con e per gli animali, sentendosi animali, animali umani, ma comunque animali. Una di queste persone è l'americano James Myers, fondatore di Animal Aid United. Myers lavora in India dal 2002, dove con la moglie Erika ha fondato l'Animal Aid Charitable Trust a Udaipur in Rajasthan. Il servizio è della nostra corrispondente Francesca De Matteis. Milano, Torino e Roma sono alcune delle città visitate di recente da James Myers, cofondatore e direttore dell'organizzazione indiana Animal Aid Unlimited, per raccontare l'attività che viene svolta dalla sua organizzazione a Udaipur, a circa 600 km da Nuova Delhi. Con la sua famiglia si è trasferito in quella regione nel 2002, iniziando con un lavoratore part-time, Orisho, ad aiutare gli animali feriti sulla strada e creando poi un piccolo rifugio per animali con relativo ospedale. Il rifugio oggi ospita circa 400 animali tra cani, mucche, asini, uccelli, maiali, tartarughe e una scimmia. Circa 150 di questi sono residenti fissi del rifugio perché le loro condizioni non gli permetterebbero di sopravvivere in strada. L'abbiamo incontrato a Roma il 1 ottobre grazie a un'iniziativa promossa dal ristorante Mavà. Come prima cosa gli abbiamo chiesto quanto essere nato in California e quante le sue esperienze successive abbiano influenzato il suo operato in India. Intanto ci dice che è nato e cresciuto a Los Angeles, è stato molto fortunato in quel periodo a vivere in California perché era un luogo, in quel periodo parliamo degli anni 60, molto avanti rispetto agli Stati Uniti sui diritti civili delle donne e degli omosessuali, e tramite queste esperienze si è evoluta la sua sensibilità verso le persone più oppresse e deboli e che hanno meno diritti degli altri. All'estero ha lavorato poi nei kibbutz in Israele e in Australia per 6 anni con la famiglia. Ciò gli ha permesso di conoscere culture differenti e di lavorare con persone di ogni tipo. Quando si è trasferito a Seattle, l'altro centro che da tempo fremeva nell'ambito della giustizia sociale, questa sua predisposizione si è acuita ancora di più. Tant'è vero che James dice che oggi al rifugio la sua azione va al di là della tutela degli animali, perché stare dalla parte degli animali vuol dire per lui stare dalla parte del più debole. Gli abbiamo poi chiesto oggi, che il rifugio è ben avviato, come si finanzia e se c'è una normativa precisa sui rifugi in India. James dice che non hanno nessun aiuto governativo, anzi, i primi anni ha persino dovuto pagare tutto di tasca sua, e considerando che viene dalla media borghesia americana e quindi non è particolarmente ricco. Dopo i primi anni ha cominciato ad assumere persone sul posto e sono cominciati ad arrivare i primi stanziamenti privati, tra cui donazioni sia economiche ma anche l'aiuto e l'operato dei volontari. Se per esempio si veniva a conoscenza della necessità di trasportare animali grossi, arrivava la donazione di $15,000 per comprare un camion adeguato per questo trasporto. Per quanto riguarda le leggi sui rifugi, Animal Aid Unlimited è un'organizzazione non governativa iscritta regolarmente al registro indiano. Non hanno però mai ricevuto controlli in 20 anni e ciò lo preoccupa particolarmente. Anche se sa che fa del bene, resta ugualmente un po' preoccupato. Gli abbiamo chiesto poi qual è il rapporto con la comunità locale. Dice che è molto soddisfatto con il rapporto con i locali, nessuno infatti lo ha mai osteggiato, anzi alcuni si lamentavano con se stessi per non averci pensato prima a fare quello che stava facendo James. Ha invece qualche piccolo problema col governo, perché molti indiani stanno diventando più ricchi, hanno più macchine e sta aumentando il traffico. Quindi si sta verificando questo scontro, racconta James, tra mondo rurale, con le mucche e i cani che transitano per le strade tranquillamente, e il nuovo mondo urbano, con le macchine che devono passare velocemente. Quindi capita che venga chiamato la crappia cani, o se devono sopprimere dei cani, ovviamente dovrebbe esserci il veterinario, ma chi è più facoltoso fa molta pressione per velocizzare le procedure, per cui si tende a portarlo via facilmente. Per questa ragione James Meyer si è scontrato spesso con le autorità ed è finito in tribunale per spiegare le sue ragioni. Fortunatamente conosce bene, molto bene le leggi dello stato in cui si trova e si sa muovere, per cui è anche riuscito a vincere una causa, cosa che il governo non ha apprezzato moltissimo, anzi ha iniziato ad essere un po' aggressivo nei suoi confronti. Questo ovviamente sta recando problemi a James, in quanto ha un visto turistico, non potrebbe infatti rimanere lì a lavorare a vita e non è un cittadino indiano, per cui il governo potrebbe dirgli in qualsiasi momento di andarsene. E oggi le posizioni si stanno riavvicinando, anche se ovviamente non è contento perché su tante questioni non c'è convergenza col governo. James inoltre svolge attività nelle scuole, ci racconta che hanno numerosi programmi con queste scuole, con le scuole di tutti i livelli, a partire dai più giovani all'università. Qui cercano di spiegare quello che fanno con gli animali al rifugio e cercano di far passare il messaggio in modo rispettoso della cultura e delle differenze che esistono all'interno dell'India, cercando quindi di calibrare il messaggio in base a chi hanno davanti. Forse non tutti sanno che esistono in Asia allevamenti di tigri. Il primo è nato in Cina nel 1986, 30 anni fa, allo scopo di ottenere ossa da utilizzare nella medicina tradizionale. Altri sono nati in Cina, Vietnam, Thailandia e altri paesi del sud-est asiatico, alimentando un mercato nero legato alla credenza che carne, ossa e anche il cosiddetto vino di tigre abbiano capacità curative. Nei giorni scorsi in Sudafrica, la 17ª conferenza CITES, la Convenzione sul commercio delle specie a rischio della flora e fauna selvatica, la questione è tornata in agenda. Si stima che in Cina vi siano circa 5-6.000 tigri nate e cresciute in allevamento, più di quelle esistenti in natura nel mondo, stimate ormai solo in circa 4.000 esemplari. Il Laos recentemente ha annunciato la chiusura dei suoi allevamenti e ora ci sono pressioni sugli altri paesi perché seguano la stessa strada o perché almeno riducano il numero degli allevamenti. Però uno dei delegati alla conferenza ha ammesso che non ci sono buone notizie per le tigri, allevate di solito per essere usate come attrazione turistica e poi finire nel mercato illegale della carne e delle ossa. Quindi, ancora una volta, secondo quello che si apprende dal Sudafrica, l'ideologia del consumo, il turismo globalizzato, sono all'origine di una pratica amorale e distruttiva che organizzazioni come CITES faticano ad arginare. Il mercato, anche stavolta, con le sue logiche stringenti e totalitarie, finisce per avere la meglio. Cattive notizie arrivano anche dalle Cinque Terre, in Liguria. Il comune di Porto Venere è infatti tornato alla carica con un piano di abbattimento delle caprette selvatiche dell'isola di Palmaria. Già in passato più volte si era tentato di eliminarle fisicamente perché considerate non autoctone e un pericolo per la biodiversità dell'isola. Ogni volta i progetti erano naufragati di fronte alle proteste delle associazioni animaliste e ambientaliste e al disappunto dei turisti che ormai considerano le caprette parte integrante dell'identità della piccola Palmaria. Ora il quotidiano Il Secolo XIX riferisce che il nuovo sindaco Matteo Cozzani ha varato un nuovo progetto, stanziando 50.000 euro per la cosiddetta eradicazione delle caprette. Il progetto, affidato a un tecnico esterno, prevede, secondo il quotidiano, tecniche di soppressione che comprendono la fucilazione, l'avvelenamento, la diffusione di malattie e perfino il cosiddetto metodo di Giuda, ossia l'uso di femmine in calore per attirare maschi ed eseguire quindi più comodamente la mattanza. Il comune ha anche coinvolto la ASL in vista della macellazione e dell'utilizzo delle carni. È inevitabilmente ripartita la mobilitazione popolare per bloccare questo progetto, a dir poco estremista e tutto proteso all'uso massimo della violenza. Esistono alternative a partire da una diversa analisi della situazione. Se davvero c'è una biodiversità botanica da preservare, e a Porto Venere devono essere degli ambientalisti molto raffinati per avere questa inusuale attenzione al tema, le soluzioni non cruente comunque sono possibili e toccherà ai cittadini a questo punto spingere il comune in questa direzione. Una buona notizia arriva invece dall'Albania, dove Tomi e Gina, definiti nei mesi scorsi gli orsi più tristi del mondo, sono stati salvati e si apprestano a tornare liberi. Per anni i due animali sono stati soggiogati da un impresario che li utilizzava per piccole esibizioni davanti al pubblico, un'eredità degli antichi orsari, una sorta di micro spettacolo viaggiante compiuto a spese di questi animali. Tomi e Gina, che hanno vissuto gran parte della loro vita alla catena, sono stati ora affidati alla associazione Four Paws e hanno finalmente cambiato vita. Sono da vedere sul web le foto dei loro primi passi senza catene, al collo e fuori dalle gabbie. Dalle foto degli orsi e dei loro primi incerti passi da animali liberi a un'immagine drammatica come quella del cavallo attaccato a una carrozzella per turisti, stramazzato al suolo e morto nella centralissima Piazza Verdi di Palermo. Il cavallo aveva appena terminato il proprio giro turistico della città, perché anche a Palermo permane questa bruttissima e anacronistica tradizione delle gite sulle cosiddette botticelle. Di fronte a questo spettacolo agghiacciante e tristissimo, i cocchieri palermitani hanno protestato con il comune per l'assenza in città di adeguate strutture, cioè luoghi di sosta e di ristoro per i cavalli. Ma evidentemente il cuore della questione è un altro, e cioè la condizione di schiavitù inflitta ai cavalli per futili motivi, come far compiere ai turisti surreali gite in carrozza nella confusione del traffico automobilistico. La campagna per la soppressione delle botticelle continua. Stagione venatoria e i cacciatori, che sono in netto calo numerico, se le stanno inventando davvero tutte per superare la crisi delle vocazioni che stanno attraversando. Manca il ricambio generazionale, l'età media aumenta vertiginosamente e i tesserini calano. Che fare? Oltre ad andare nelle scuole a fare interventi su quanto sia bello, sano ed ecologico sparare agli animali liberi, adesso i cacciatori tentano di giocarsi un'altra carta. È in libreria un libro per bambini che rivaluta il cacciatore. Si intitola Il cacciatore in favola ed è un libro illustrato, scritto anche in carattere easy reading perché possano leggerlo agevolmente i bambini dislessici. Poiché il libro prende spunto dalla fauna trentina, abbiamo chiesto al nostro corrispondente da Trento, Zenone Sovilla, un approfondimento sulla vicenda. Per cominciare, va chiarito che stiamo parlando di un libro che, malgrado una certa enfasi mediatica, in realtà ha venduto meno di 1500 copie e pubblicate a cura degli autori. Insomma, rischia di diventare più famoso per le critiche che riceve che per gli apprezzamenti nel mondo dei cacciatori, che sono i grandi sponsor di questo libro di fiabe per bambini che ha lo scopo di giustificare, anzi di glorificare la caccia, contrapponendola ad altre attività contro gli animali sulle quali, secondo gli autori, andrebbe davvero puntato il dito, a cominciare dagli allevamenti intensivi. È un alibi quest'ultimo per rivenderci la vecchia favola, per l'appunto, del cacciatore in armonia con la natura, ma ovviamente armato di fucile e mosso da motivazioni del tutto estranee agli equilibri naturali. Superfluo osservare che i tre autori del Cacciatore in favola, libro pubblicato in Trentino, sono a loro volta cacciatori, in un caso, o persone cresciute in famiglie con cacciatori, le altre due autrici. Forse meno superfluo è osservare che questo libro illustrato, stando alla stampa locale, avrebbe ricevuto il patrocinio della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento, oltre a quello ovviamente scontato dell'associazione Cacciatori Trentini. Sempre secondo quanto riporta la stampa, le 11 favole pro caccia vengono lette ai bimbi nelle scuole dell'infanzia e alle elementari, sempre in Trentino-Alto Adige. Il che, se confermato, dovrebbe sollevare qualche serio interrogativo pedagogico e didattico, nonché qualche domanda sul ruolo dell'ente pubblico. E se in molti criticano questa operazione editoriale, a chiedere che il libro semplicemente sia ritirato perché diseducativo è una petizione lanciata online da Cristina Puozzo, che lavora all'Associazione Vegani Italiani. Questo libro, si legge nella petizione, scritto da tre persone che amano la caccia, indirizzato a un pubblico di minori, intende minare la naturale inclinazione compassionevole dei bambini nei confronti degli animali. Far credere a un bambino che sia giusto uccidere un animale è una violenza inaudita e non tollerabile. Slogan come «Sì, è giusto uccidere bambi», oppure presentare il cacciatore come custode della natura e della fauna, attribuendogli un ruolo positivo, non sono accettabili. I bambini devono essere educati al rispetto della natura, dell'ambiente e degli animali, e non incoraggiati a imbracciare un fucile, si legge ancora nella petizione, che si può sottoscrivere online. Nel frattempo, l'Associazione delle Cacciatrici Sudtirolesi ha pensato di tradurre le fiabe in tedesco, mentre la presidente di un analogo sodalizio americano ha deciso di farne una versione in inglese. Parliamo però anche in questo caso di qualche centinaia di copie. Quindi forse la risposta più adatta è produrre controinformazione corretta e per il resto ignorare queste favole, lasciandole in semiclandestinità fra i cacciatori. a patto ovviamente che davvero non entrino nelle scuole e che l'ente pubblico sia chiamato a spiegare il suo ruolo in vicende di questo tipo. La stagione e con essa cambiano i nostri consigli culinari, perché come sempre noi vi suggeriamo una cucina di stagione, locale, chilometri zero, biologica e ovviamente cruelty free. Stavolta il tosco vegan chef Gabriele Palloni decanterà per voi le virtù del sedano rapa, un vero toccasana per l'azione diuretica e disinfettante che svolge sull'organismo. Fornisce il sedano rapa. L'umile sedano rapa pochissime calorie, soltanto 23 per 100 grammi di prodotto, ed è costituito per l'88% da acqua, carboidrati, proteine e fibre per il restante 12%. La radice del sedano rapa è ricca di vitamine, sali minerali, ferro, potassio, manganese e svolge un'azione remineralizzante e antiossidante. Se il suo aspetto non lo trovate attraente, provate la ricetta della settimana. Il successo è garantito con grandi e piccini. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Protagonista della ricetta di oggi è il sedano rapa, noto anche come sedano di Verona. Vi sarà capitato di imbattervi in questa grossa radice ricca di fibre, ma anche di minerali e vitamine, interrogandovi sul suo possibile utilizzo nella vostra cucina. Ecco una delle mille possibilità per apprezzare questa prelibatezza. Gli ingredienti per 4 persone per la cotoletta di sedano rapa sono un sedano rapa, 100 g di farina di ceci, 100 g di farina di frumento, del pan grattato, olio extravergine di oliva e sale. Boing! Togliete la scorza esterna del sedano rapa e tagliatelo a fette spesse mezzo centimetro. Fatele sbollentare in acqua salata per 5 minuti, quindi scolatele e lasciatele raffreddare ed asciugare. Nel frattempo stemperate la farina di ceci con acqua e una goccia di olio, lavorando con la frusta fino ad ottenere una pastella liscia e non troppo densa. Aggiustate di sale e lasciate riposare per 30 minuti. A questo punto passate le fette di sedano rapa nella farina e successivamente immergetele nella pastella di ceci. Fate scolare bene la pastella in eccesso e infine passate nel pan grattato, premendo per far ben aderire la panatura. Friggete in immersione in abbondante olio bollente. Scolate su carta per frittura e servite con un pizzico di sale in superficie. Potete accompagnare le cotolette di sedano rapa con della salsa verde o della maionese vegan. Le ricette le potete trovare sul blog di Restiamo Animali. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed up to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves. E siamo in chiusura, hanno collaborato alla puntata Lisa Kammerer, Roberta Marino, James Myers, Francesca De Matteis, Zenone Sovilla, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni e la voce al microfono, che è quella di Camilla Lattanzi. L'appuntamento è tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.